Attivamente a Solfagnano, la vita indipendente come priorità comune. Su invito della Federazione Italiana per il superamento dell'handicap, FISH, abbiamo partecipato all'evento La Carta di Solfagnano a un anno dal G7 Disabilità, che si è svolto presso il Castello di Solfagnano, in Umbria. Promosso dal Ministero per le Disabilità e aperto dalla Ministra Alessandra Locatelli, il meeting ha riunito rappresentanti istituzionali, esperti e associazioni, anche internazionali, per condividere esperienze e tracciare una visione comune sulle politiche per la disabilità, culminata nella Carta di Solfagnano. La nostra partecipazione si inserisce nel percorso, anche di cooperazione internazionale, che l'Associazione porta avanti da anni, in coerenza con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, CRPD, e, in particolare, con l'articolo 19, che sancisce il diritto alla vita indipendente e alla piena partecipazione nella comunità. Particolare attenzione è stata dedicata proprio a tale tema con un panel dedicatogli, un ambito che oggi trova un rinnovato spazio di confronto anche a livello internazionale. L'inclusione, la dignità e la libertà di scelta delle persone con disabilità sono emerse come obiettivi imprescindibili per tutte le politiche pubbliche, non solo nel campo sociale, ma in ogni settore della vita civile. Il G7 Disabilità di Solfagnano segna un passo significativo verso una collaborazione più stretta tra governi, enti e associazioni, per costruire società realmente accessibili e inclusive. Pubblichiamo, in allegato, il programma ufficiale dell'incontro mentre cliccando qui si può consultare il testo integrale della Carta di Solfagnano, per consentire a tutti di approfondirne i contenuti e gli impegni condivisi.